I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Secret Service now investigating an apparent sign of hate against President Obama. Sky 7 was over the scene, what you see there. Obviously a swastika next to insomma, questa è una notizia arrivata poco fa dal New England, da una rete locale che si è immediatamente espansa nelle televisioni americane in tutta la nazione. Ricordate il regista Shyamalan, no? Fece quel film che si chiamava Signs, segni, in cui in un grande campo di grano a un certo punto appaiono dei giganteschi cerchi e poi viene fuori, insomma, che i marziani sono arrivati e sono pure male intenzionati. Bene, facendo le debite proporzioni, in un pezzo di un campo da golf grande circa 3 metri per 3 metri è apparsa una scritta visibile anche volando bassi naturalmente, e la scritta è piuttosto inquietante. C'è scritto I, nel senso di io, svastica, c'è una svastica però rovesciata, attenzione, e poi c'è Obama, una grande scritta Obama. Cosa vorrà dire, si chiedono i giornalisti locali, ma già sono in viaggio gli inviati nazionali per vedere questa ennesima fonte, no, di leggende metropolitane già in vista. Può voler dire naturalmente io faccio fare a Obama una brutta fine, ma il segno della svastica rovesciato è anche un segno, no, orientale, che significa pace e amore, insomma c'è tanta confusione sull'argomento. E poi chi è che nottetempo va in un campo da golf e scava il prato facendo questa bella bravata, che naturalmente ha fatto incavolare a morte il proprietario del campo da golf, il Lakeville Country Club, puro suburbia americano. La questione, per arrivare rapidamente a un punto, è che amato, odiato, Obama ossessiona comunque gli americani. Giorno e notte, si direbbe il quotidiano e anche il notturno americano. Fanno scritte nei prati, discutono instancabilmente, come abbiamo fatto noi ieri, sul suo premio Nobel, ma soprattutto stanno a vedere le questioni di sostanza. Today we reached a critical milestone in our effort to reform our healthcare system. E al riguardo, sulle questioni di sostanza che ora passiamo a trattare, il presidente numero 44 sostiene di aver raggiunto ieri una pietra miliare cruciale, come ha appena detto in prima persona. È così che definisce l'approvazione da parte della Commissione Finanza del Senato della legge di riforma sanitaria. Il disegno di legge è andato avanti in commissione per 14-9, ovvero si è presa anche un voto repubblicano, quello della senatrice Olympia Snowy, e questo conta molto, perché come sapete l'idea bipartisan, l'idea sia pure insomma in termini limitati, di riuscire a rendere trasversale la politica americana è sempre stato uno dei punti di partenza della piattaforma di Barack Obama, che non a caso ha ringraziato per il coraggio la Snowy, ha detto che la riforma consentirà di tenere a freno le tendenze peggiori delle assicurazioni sanitarie, ovvero quello di spremere naturalmente il portafoglio dei cittadini, e però ha osservato che il traguardo è ancora lontano. Tra l'altro il voto della Snowy potrebbe far comodo in Senato nel caso saltassero fuori dei cecchini, no, dei franchi tiratori tra i democratici, e però la Snowy a sua volta ha detto: guarda che quello che ho fatto vale solo per oggi. Testuali parole, poi quando si tratterà di esprimersi nuovamente in Senato ci penserà una seconda volta. E la seconda questione di sostanza, questione importante dell'amministrazione Obama, della Casa Bianca di queste ore, è naturalmente l'Afghanistan, la storia di questi 13.000 soldati che vanno a incrementare il contingente americano in Medio Oriente, su cui pare che insomma la Casa Bianca abbia fatto un po', no, il giochino del non dico non vedo, insomma che se queste truppe, secondo il Washington Post, in prevalenza personale medico, esperti di intelligence, polizia militare, genio, addirittura ingegneri, non sarebbero state annunciate, ma il Pentagono, confermando sostanzialmente i numeri del quotidiano, quindi questo 13.000, sostiene che l'invio in Afghanistan era stato deciso già dal predecessore di Obama, George W. Bush, uno che non vi dirà mai, da quando è andato in pensione dal punto di vista della Casa Bianca, se l'ha fatto o non fatto, non ne vuole vuole semplicemente più sentir parlare. Non manca nulla, nulla è stato nascosto, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento della Difesa all'agenzia, ricordando che la cifra complessiva, 68.000 soldati per fine anno, comprende anche i 13.000 in questione. Il New York Times stamattina scrive che Gates, il segretario della difesa, e Hillary Clinton, segretario di Stato, che definisce due pragmatici moderati, avrebbero avvicinato ormai le proprie posizioni sull'Afghanistan dopo le grandi differenze iniziali, e l'idea comune sarebbe di inviare militari in più, ma ben meno di quanti ne vorrebbe McChrystal, ovvero il grande capo della operazione militare in Afghanistan, concentrandosi invece sempre più sulla lotta contro Al-Qaeda. Primo piano. Allora, vi abbiamo detto che novembre tradizionalmente è tempo di elezioni in America, vi abbiamo già introdotto, presentato, ci torneremo presto sopra, le elezioni di due nuovi governatori in due stati importanti come New Jersey e Virginia, ma c'è anche un'altra elezione importantissima, soprattutto dal grande valore simbolico, che sta per andare in scena in America, ed è quella del nuovo sindaco. C'è Mike Bloomberg, il nuovo sindaco di New York, che cerca la riconferma, il terzo mandato, che è una stranezza ma che viene resa possibile dalla regola americana. È in netto vantaggio anche perché ha stanziato fondi che sono 16 volte quelli del diretto avversario, che si chiama Bill Thompson, che è un democratico di colore, assolutamente staccato nelle preferenze dei newyorkesi, che vogliono l'indipendente Bloomberg e la sua visione pragmatica di risolutore dei problemi in città, e quindi la rielezione di Bloomberg è tutt'altro che in discussione. Tra l'altro Thompson si è recentemente, nelle ultime ore, lamentato perché sperava in un appoggio da parte di Obama, ma evidentemente Obama di cause perse ne ha un po' piene le scatole, e di sostenere Thompson, visto le possibilità zero del suo successo, non ne ha alcuna intenzione. La cosa divertente è che però alla fine poi New York è sempre New York, no? Come dice il noto adagio che segue tra poco, e perciò ci sono i due candidati che si battono, Bloomberg contro Thompson, ma poi ci sono anche tutti gli altri, ovvero un autentico campionario di newyorkesi, eccoli. Questa non ve la leva nessuno, naturalmente. Diamo agio a Liza di dirci del suo. Start spreading the news. E allora li abbiamo un po' stanati questi candidati minori della elezione di un nuovo sindaco per New York, perché c'è veramente lo spirito di questa città, l'anima di questa città, che sappiamo bene anche agli italiani è molto cara. Tra l'altro poche ore fa, l'altro ieri, il presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, pensate un po', ha consegnato al sindaco di New York Michael Bloomberg il premio Joe Petrosino, intitolato al famoso poliziotto, no? Protagonista anche di un famoso serial televisivo, come riconoscimento dell'impegno di New York a favore della legalità e contro il crimine. Insomma, si va a lezione da Bloomberg. Ma poi ci sono quelli che non hanno speranza, ma che però sono newyorkesi, che credono, come dice Liza, che una speranza c'è per tutti, che vogliono concorrere anche loro ed essere scritti su quelle schede. E sono, che vi garantisco, una galleria formidabile che abbiamo un po' studiato oggi. Sono socialisti, sono comunisti. C'è un personaggio fantastico di cui vi vogliamo subito far ascoltare la voce, si chiama Jimmy McMillan. This is our party, this is our time, the rent too damn high movement gonna shine. We waited, we suffered long enough, the time is over. Che meraviglia, sembra preso direttamente da un film di Spike Lee. È un signore di colore, faceva il postino, ha degli enormi baffoni bianchi, tinti in bianco, dice di essere anche un musicista, un autore, secondo me anche un rapper. Il suo partito si chiama Gli Affitti Sono Troppo Alti. secondo me come nome per un partito non è malaccio, gli affitti sono troppo alti. Invece sotto le insegne del partito libertario si è schierato questo Joseph L. Dobrian, un altro personaggio straordinario, va sempre in giro con la bombetta, fa il creatore, il designer di vestiti, la sua linea si chiama Joseph of Iowa, evidentemente lui è dell'Iowa, e il suo programma elettorale consiste nel ridare a New York quel fun, quel divertimento, quella piacevolezza di un tempo. Ma poi c'è il migliore di tutti, il nostro prediletto, sotto le insegne del Partito Verde, corre Billy Talen. Billy Talen, eccolo. Greetings, this is Reverend Billy Talen. I'm running for mayor. The only issue this year is democracy. That's the decision that we non date retta a questa voce apparentemente seria. Il personaggio è assolutamente pazzo. Si tratta di Reverend Billy. Forse se avete girato per la metropolitana di New York vi sarà capitato anche di incontrare una specie di Elvis Presley biondo che ha fondato una sua chiesa, di cui è naturalmente l'unico ministro. E la chiesa si chiama Church of Life After Shopping, ovvero la chiesa di una vita possibile dopo aver fatto lo shopping. Lui sostiene di essere anticonsumista, ma lui soprattutto è newyorkese, è un vero e proprio... una vera e propria figurina newyorkese, no? Non a caso gli piace un sacco farsi vedere, concorrere da sindaco e nel frattempo vendere anche i suoi dischi. It's not for sale, it's not for sale. It's not for sale. Questi sono i suoi sermoni, no? Sentite i sermoni di Reverend Billy. Not for sale. Not for sale. I'm telling you democracy. Insomma, in certi casi le elezioni sono, come dire, una spesa un po' superflua anche in America. Questa è la sostanza. Michael Bloomberg riprenderà le redini della città di New York e cercherà di fare quello che tra successi e insuccessi ha fatto nelle ultime stagioni, negli ultimi mesi, ovvero pilotarla fuori da questo momento assai difficile, che se vi capiterà ad esempio di passare delle vacanze laggiù nei prossimi mesi vedrete con i vostri occhi, la città è ammaccata, soffre parecchio, però ci sono personaggi di grande qualità e poi ci sono questi newyorkesi a cui non riusciamo a rinunciare, come Reverend Billy, il suo gospel, e poi alla fine c'è naturalmente il gospel, quello vero, sul quale come al solito ci fermiamo. Trouble in my way, trouble in my way. I have to cry sometime, I have to cry sometime. Buongiorno America. On Thursday at 3 p.m. March 19th, 2009 at the Teton County Courthouse in Shoto, Montana, I was married to Regina Lasco. Bei tempi quando David Letterman poteva togliersi lo sfizio di annunciare in diretta televisiva il suo matrimonio con la adorata Regina Lasco, la sua fidanzata storica. Adesso la storia del caso Letterman, che sbarca ormai in grande stile anche sui giornali e sui settimanali italiani, un po' perché il presentatore, conduttore comico ormai è anche una star della nostra televisione, grazie alle repliche sul satellite del suo show notturno, un po' perché ci sono degli evidenti paragoni, no? La celebrità colta sul fatto, una questione di sesso, di relazioni adulterine, e il modo in cui reagisce il pubblico, anche se naturalmente qui si parla solo e soltanto di show business, ma poi in fondo si parla anche, no, di etica nella sua declinazione americana. Su Panorama un grosso articolo titola Caso Letterman, il re del talk show, è nudo, ad esempio. La notizia che arriva oggi ad arricchire il panorama di questa storia, tutt'altro che destinata a finire, è una possibile richiesta di divorzio da parte di Regina Lasco, evidentemente innervosita, offesa, forse non disposta a perdonare come sembrava inizialmente. Il bottino economico, tanto per essere così un po' venali, in gioco è enorme. Il capitale di Letterman ammonterebbe circa 300 milioni di dollari, quindi una spartizione di questo genere non è di quelle che si fanno in pochi minuti, ma di sicuro comunque l'aria attorno a Letterman sta cambiando un po'. Le prese di posizioni recenti di alcune organizzazioni femministe, un po' l'atmosfera generale che, no, nel secondo, no, dopo il primo momento così di perdonismo, di accettazione, in un certo senso anche di gradimento nei confronti di questo personaggio che ha deciso di raccontare la storia della sua relazione extraconiugale e il successivo ricatto di cui era stato fatto oggetto, poi le cose sono un po' cambiate, sta cominciando il goccia a goccia delle rivelazioni, e questo alla lunga potrebbe essere addirittura fatale alla carriera di Letterman, no? Che non a caso venerdì ha cominciato il suo monologo dicendo: siete sicuri che vi va ancora di farvi vedere in giro con me? La questione è molto semplice. Per anni Letterman ha costruito la propria celebrità, il suo successo, sostanzialmente facendolo spiritoso e fustigando i vizietti degli americani, soprattutto quelli famosi. Adesso è difficile possa continuare a farlo dopo essere a sua volta incappato in un problema piuttosto grosso. No, l'America perdona, ma questa storia sta per uscire dalla questione show business e sta per entrare nelle aule di giustizia. E tra l'altro ci sono coinvolti degli avvocati che difenderanno gli imputati, ovvero coloro che hanno cercato di ricattare David Letterman, che sono gente tutt'altro che tenera, tanto per spiegarvi, sono gli stessi avvocati che hanno difeso la famiglia Gotti, nella fattispecie un legale che si chiama Gerald Schargel, e quindi secondo noi nubi, grosse nubi all'orizzonte per il grande David. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. E l'altra storia di carattere legata al mondo dell'intrattenimento, entertainment, no? Questo è spettacolo. L'America è o è stata una società di spettacolo basata in modo intrinseco, profondo, connesso con il mondo del successo, della celebrità e anche delle sfide per arrivarci. Un'altra storia che questa mattina impazza sulle televisioni americane è naturalmente quella di Michael Jackson e di questo suo brano postumo, il primo uscito e lanciato in grande stile, si chiama This Is It, che già intanto è emerso non essere affatto un inedito come pensava la Sony, bensì un pezzo scritto a quattro mani, al massimo a quattro mani, con Polanca, addirittura nel 1991, e già presente nel repertorio della cantante Sapphire, con un titolo diverso, si chiamava I Never Heard, il pezzo in questione, peraltro caduto immediatamente nel dimenticatoio. E poi c'è la storia che questa mossa di sfruttare in modo così intenso e melenso al tempo stesso e assai poco sincero e passionale la morte di Michael Jackson sta piacendo poco ai fan e sta piacendo poco anche ad alcuni dei suoi familiari, ad esempio sua sorella, Latoya Jackson. Sentiamo. You think he would have wanted this released? You know what, that's a very, very, very good question. And truthfully, my opinion, no. Why? Because Michael always wants to give his best. This is a rehearsal. He wasn't giving his all. E qui non ci va a leggere la toglia, dice, volete sapere che cosa penso? Che questa cosa non sarebbe piaciuto per niente, soprattutto a una persona, ovvero a Michael Jackson, a mio fratello Michael stesso, perché lui era abituato a pretendere da se stesso e a dare sempre il meglio. E detto francamente, quello che invece i suoi fratelli, questa cerchia di questo caravanserraglio che si è creato istantaneamente attorno, in un certo senso, alla bara, al sarcofago di Michael Jackson, per rivivificarne, no, il potere commerciale, sta facendo delle scelte piuttosto dozzinali, come nella fattispecie questo brano, che, come dicevamo, non è niente di speciale, della cui esecuzione sulla cui esecuzione si hanno dubbi di ogni genere, che cosa c'era veramente a origine, forse soltanto un demo tape o qualcosa del genere. Il quotidiano, il rotocalco inglese Sun, se ne esce anche con questa storia di capelli bruciati nel famoso incidente, no, della registrazione dello spot per la Pepsi. Da capelli bruciati di Michael Jackson sarebbero in vendita addirittura attraverso, per volontà del produttore esecutivo di quel commercial, che evidentemente li ha raccolti, li ha messi in una bustina e adesso sarebbe pronto a venderli con tanto di expertise per garantirne l'appartenenza. Diciamo tutto un po' macabro. Viva la Toia, siamo d'accordo con lei. A Michael, pace all'anima sua, non sarebbe piaciuto. Del resto, lo spettacolo deve andare sempre avanti e il mondo della comunicazione, dell'informazione, dello show business americano passa anche attraverso storie un po' trash, appunto come questo sbrigativo ritorno in scena di Michael Jackson. Questo è Buongiorno America, noi facciamo eco di tutte queste storie qua per chi ci ascolta in Italia, per questo pubblico appassionato di America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, la parte tecnica Valerio Rocchetti a Roma e Carmelo Lauricella a Milano. Abbiamo una mail, Buongiorno America e radio24.it, e una pagina Facebook, redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'una e mezza qui a Radio 24. E solo un ricordo, ma se n'è andato ancora giovane, un bravo giornalista che si chiama Corrado Sannucci, e noi vogliamo dargli almeno il nostro personale omaggio. Per il resto state tutti bene, ci sentiamo domani.